Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera facciamo un viaggio un po' lungo. Andiamo in America Latina, andiamo in Uruguay per parlare del paese dell'utopia. Questo è il titolo del libro di Leonardo Martinelli, edito dalla Terza, un libro che è appunto un viaggio nell'Uruguay di Pepe Mujica. Leonardo Martinelli, buonasera, è qui con noi questa sera. Buonasera Martinelli. Buonasera. Martinelli, giornalista, collega, ha lavorato per 20 anni a Sole 24 Ore, ora è a Parigi, collabora con La Stampa, è stato tra l'altro anche nostro ospite in questa stessa rubrica l'anno scorso, perché ha scritto un altro libro, quasi un romanzo, L'economia raccontata a chi non la capisce. È un libro del tutto diverso, abbiamo parlato a suo tempo di questo appunto racconto dell'economia. Questa volta Martinelli ha scritto un libro di viaggio perché ha vissuto dal 2003 al 2007 in Uruguay. Un po' di nostalgia, Martinelli? Bah sì, un po' di nostalgia sì, perché è un paese che è un po', diciamo, mi ha segnato in un certo senso e che anche ho riscoperto poi dopo grazie proprio a questa esperienza di Pepe Mujica come presidente, che è stato presidente fino a pochi mesi fa. Infatti circa un anno fa io sono ritornato in Uruguay, non c'ero stato più per alcuni anni, ho fatto un viaggio nel paese, un piccolo paese, ma io ho fatto comunque un lungo viaggio perché sono andato in tanti posti. Da questo viaggio è nato il libro. Ecco, un libro appunto che racconta questa esperienza di Pepe Mujica, di un paese di cui si parla poco in Italia, anche perché è un piccolo paese, si parla molto di Argentina, di Brasile, di Venezuela, però è un paese in cui si è realizzato un'esperienza, un esperimento politico particolarmente importante. Chi è questo Pepe Mujica? Pepe Mujica è un personaggio veramente strano, perché in realtà è un ex terrorista, è un tupamaro. I tupamaros erano appunto i guerriglieri attivi in Uruguay negli anni precedenti alla dittatura. Poi in realtà con l'arrivo della dittatura all'inizio degli anni 70 in Uruguay questo movimento, diciamo, venne sconfitto, però è un movimento che poi ha saputo reinventarsi. In realtà poi, come spiego nel libro, già alle origini il movimento dei Tupamaros non era proprio paragonabile alle Brigate Rosse in Italia, cioè loro avevano altri tipi di ideali e all'inizio non avrebbero voluto, non volevano utilizzare la violenza. Questa violenza poi la utilizzarono, infatti il mio non è un libro che vuole negare questo. Diciamo che poi si sono reinventate, sono andati al potere, portando al potere la sinistra in Uruguay, e come dicevi hanno creato, diciamo, un piccolo laboratorio della sinistra sudamericana molto interessante, se vuoi anche dal punto di vista economico. Ecco, da questo profilo non si possono fare paragoni con il comunismo di Castro, col chavismo del Venezuela? No, assolutamente no, perché e questo fin dagli inizi, ma poi soprattutto come si è sviluppata, diciamo, l'ideologia a Tupamaro, soprattutto nel momento in cui sono arrivati al potere, loro e Pepe Mujica in particolare sono molto pragmatici. Pepe Mujica è un contadino, vive ancora nella casa dove è sempre vissuto, io ci sono anche stato proprio per in questo mio viaggio, è un'umilissima casa di 50 metri quadri forse, una specie di catapecchia nella campagna. Ed è una persona, io credo, è proprio contadino nell'anima, nella testa, è molto pragmatico, è molto con i piedi per terra e quindi non ha voluto assolutamente lanciare un esperimento comunista, ma un capitalismo, diciamo, con delle regole, un libero mercato con delle regole, da un certo punto di vista come abbiamo anche in Europa, ma in America Latina queste regole spesso non c'erano state, infatti si è visto poi che cosa è diventata l'America Latina, cosa è diventata l'Argentina a un certo momento. Ecco, queste regole loro le hanno volute mettere. Adesso l'Uruguay è un paese, ad esempio, che ancora cresce, a differenza del Brasile e dell'Argentina, è un paese che ha ridotto moltissimo la povertà, la quota dei poveri è di circa il 5%, che è la quota più bassa di tutta l'America Latina, ha il reddito pro capite più alto dell'America del Sud. Io ho voluto però fare un viaggio e vederle queste cose, non solo farmele raccontare, certo, da un mondo anche un po' no global, diciamo, che ha sposato la causa di Mujica, che lo ha esaltato. Io ci sono stato, ho visto anche cose che al limite non mi sembravano giuste e le ho raccontate nel libro. Ecco, indubbiamente questo viaggio è un viaggio appunto un po' nella storia degli ultimi anni, un po' in questo paese in cui tra l'altro ci sono moltissimi italiani, discendenti italiani che sono emigrati in America Latina. C'è l'interessante anche alla fine del libro il Pepe Pensiero dalla A alla Z, è quasi un piccolo vocabolario che riassume un po' il libro, e c'è un paragrafo dedicato a Papa Francesco. Dici a un certo punto che Mojica e Bergoglio hanno molti elementi in comune, soprattutto nello stile di vita. Ecco, forse non nel pensiero, nella teologia. Mojica è un ateo che si professa ateo, Bergoglio si professa cattolico, quindi anche per dovere d'ufficio, ma soprattutto per convinzioni personali e per esperienza religiosa. Due personalità quindi molto diverse, ma quali sono i punti in comune? Guarda, una delle frasi proprio tipiche di Mujica è questa: chi è infelice con poco non sarà felice con niente. Secondo me è una frase che potrebbe dire anche Papa Francesco. Quindi c'è questa idea della sobrietà, di una vita dove si deve lavorare, si devono guadagnare dei soldi, non siamo appunto nell'ottica di un idealismo più o meno, diciamo, ispirato al comunismo. Siamo in un mondo reale dove si lavora, si guadagnano dei soldi, ma dove i soldi non sono l'unico scopo della propria vita. In questo io credo che i due personaggi siano molto simili, e poi sono anche due personaggi che si stanno simpatici, c'è anche questo da dire, cioè si sono incontrati e credo che ci sia stato proprio un feeling tra i due, nonostante, come dicevi, Mujica sia un ateo dichiarato e credo irrecuperabile da quel punto di vista. Beh, probabilmente anche qui si potrà fare una certa strada, una strada che però è segnata appunto da una realtà come quella dell'America Latina, che forse ha degli schemi anche diversi da quelli occidentali. C'è anche forse un po' della difficoltà con cui si comprendono certe affermazioni di Papa Bergoglio anche qui in Italia, appunto, proprio perché usa degli schemi che, diciamo, non sono usuali nella nostra realtà. E anche così è una realtà un po' diversa quella dell'America Latina, Martinelli? Certamente, anche perché esiste questo problema delle differenze sociali, che sono fortissime, molto più forti che in Europa, quindi quella è una priorità. Quindi, diciamo, esibire una certa sobrietà è qualcosa che è importante in Europa, ma in America Latina è importantissimo, cioè va veramente contro una tendenza dominante che fino a un certo punto è stata quella dell'arricchimento facile, e in questo si sposano spesso certe esigenze del cattolicesimo e certe esigenze della sinistra, certe volte anche con delle derive, basti ricordare la teologia della liberazione, però diciamo che è un'esigenza sociale forte in America Latina che condividono sia ambienti del mondo cattolico che ambienti della sinistra. E per dare anche un consiglio di viaggio a chi si ascolta, chi volesse andare in America Latina, tu che la conosci molto bene, cosa consiglieresti? Beh, consiglio di andare in Uruguay dopo aver scritto questo libro, sicuramente. Beh, prima di leggere il libro, indubbiamente, poi di andare in Uruguay. Beh, l'Uruguay è un paese particolare, guarda, non è un paese eccezionale, dove ci sono delle cascate incredibili, è un paese fatto di pampa, colline ondulate, un mare molto bello, oceano, le spiagge bianche, ma soprattutto in Uruguay si riscopre, questo ho cercato di spiegarlo nel libro, una certa, quella che era un po' l'atmosfera anche dell'Italia degli anni 60, 70, il valore della famiglia, il valore di stare ad esempio insieme tra generazioni diverse. L'Uruguay è un paese dove uno va in giro in spiaggia e vede questi grupponi di persone, dove si va dal nonno al neonato, stanno tutti insieme, giocano insieme, fanno sport insieme, un paese dove si fa molto sport, sono molto sportivi gli uruguaiani, quindi io per un viaggio anche nel tempo, non solo nello spazio, consiglio l'Uruguay. Ecco, l'Uruguay che è appunto un piccolo paese, una volta si chiamava la Svizzera dell'America Latina, forse non è più così, forse c'è qualcosa di più anche in mare che la Svizzera non ha. Certo, se vuoi, si chiamava la Svizzera anche per la presenza di un settore, un sistema finanziario molto forte, molte banche, dove anche i ricchi brasiliani, i ricchi argentini portavano i loro soldi per evadere il fisco. Questa era la realtà della Svizzera dell'America Latina. Oggi questo è uno dei cambiamenti proprio dell'Uruguay di oggi, dovuto non solo a Mujica ma proprio a una gestione del paese dopo la crisi argentina, perché la crisi argentina ha dei riflessi molto forti sull'Uruguay, e appunto una delle nuove tendenze è ridurre questo sistema finanziario. Questo loro l'hanno fatto perché non sono più il paradiso fiscale di un tempo, hanno proprio promosso delle leggi per operare, realizzare questo cambiamento, diventare un paese come gli altri dove si produce, ad esempio è un piccolo paese, ma pro capite è il paese dell'America Latina che più produce software, ha un settore di produzione di software molto sviluppato. Quindi, anche perché le università pubbliche sono molto buone. Certo. Quindi è un paese da scoprire, ecco, concludiamo così questa nostra, un paese da scoprire, un Uruguay appunto di cui, come dicevo, si parla poco. Questo libro ne parla, può essere un'occasione per conoscerlo meglio, per conoscere una realtà dell'America Latina che spesso noi guardiamo molto con stereotipi e pregiudizi, che invece è molto diversificata, ma soprattutto fatta da grandi anche personalità, da grandi capacità di essere in fondo profondamente umani. Grazie a Leonardo Martinelli. Ricordo, il libro è Il paese dell'utopia, viaggio nell'Uruguay di Pepe Mujica, edito da La Terza, sono 216 pagine per 13 euro. Ringrazio anche Pietro Lacorte in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.